Olimpia. Tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci. Tempi straordinari, straordinariamente difficili, dirà qualcuno, quelli che stiamo vivendo, e allora straordinaria e speciale è la puntata di Olimpia di questa giornata, perché il coronavirus ha stravolto la nostra quotidianità e anche i calendari delle nostre passioni sportive, e allora è bene in qualche modo confrontarsi con questa nuova realtà per vedere come reagisce la nostra mente a questa improvvisa novità, chiamiamola così, e come anche la nostra mente può venirci in aiuto e anche la nostra passione sportiva può davvero aiutarci, anche se un po' messa alla prova chiaramente da questa epidemia, ma lo sport è infinito con le sue risorse e può venirci in aiuto e in soccorso anche per far passare questi tempi bui. Ebbene, di tutto questo e di molto altro parliamo oggi a Olimpia con un amico di Olimpia che ben conoscete, mental coach di tanti campioni dello sport italiano, preparatore atletico, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Ben ritrovato Stefano Tirelli qui a Olimpia. Grazie Dario e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, caro Stefano, davvero tempi difficili, no? o meglio dire, con un po' di speranza complessi, quelli che stiamo attraversando, e ci è venuto spontaneo chiedere subito un tuo aiuto, un tuo soccorso, perché la nostra mente, la nostra volontà, le nostre abitudini sono messe a dura prova da questa situazione. Ecco, ti chiedo subito come reagisce la nostra mente quando la propria quotidianità e i propri ritmi vengono stravolti in modo così accentuato da un evento così fortemente imprevedibile. Ma direi che potremmo magari anche rispondere cercando di visualizzare quello che nello sport accade, ovviamente con le dovute proporzioni, quando un evento improvviso determina uno shock mentale e anche fisico, quindi ci impedisce in qualche modo di muoverci, che è proprio l'antitesi della vita. La vita è movimento. Allora a quel punto si parla di choking. Choking nello sport è il momento nel quale tutto si paralizza, però grazie al cielo noi abbiamo delle risorse naturali, interiori, tutti, veramente tutti, che ci possono permettere di reagire dopo una prima fase di comprensiva paura, timore, ansia, stress, mettendoci in una condizione che noi chiamiamo di performance arousal, cioè tutti i livelli si mettono al massimo della loro potenzialità. Non a caso, se il virus è adattabile, lo stiamo conoscendo, a tante situazioni, anche la nostra mente lo è, no? Per antonomasia siamo gli esseri viventi più adattabili, a partire proprio dalla mente che ci governa. Ecco, proprio rispetto a quello che dicevi, una volta in qualche modo attutito lo shock dell'evento, quali sono i primi movimenti che la nostra mente fa per cominciare ad adattarsi alla nuova situazione e tornare ad essere performanti in quella situazione? Beh, c'è una prima fase di reazione attraverso, per molti, non per tutti, ma per molti, una capacità di ironizzare, parlo con rispetto del termine, rispetto a quanto sta accadendo, cioè una difesa che ci permette di considerare il tutto nella sua gravità, ma anche nella possibilità di sminuirlo, di relativizzarlo almeno mentalmente. L'ironia, tant'è che Jung la definiva la più grande arma per esorcizzare le paure, ed è uno stato naturale quello di poterle, per così dire, un pochino trasformare, sminuire. Poi dopodiché però c'è la fase attiva della mente che reagisce attraverso quello che appunto magari nello sport noi chiameremmo il goal setting, cioè la definizione di obiettivi, perché se ci fermiamo solo alla stasi, al momento della considerazione di ciò che sta avvenendo, non andiamo oltre. Scatta allora, come suggerimento, quello della definizione di obiettivi reali. Ce ne sono due che si possono definire ma tra loro unire. Uno si chiama outcome goal, che sarebbe praticamente come se questa è la nostra gara e ognuno la deve vincere. Punto. Non c'è un'altra chance, non c'è un'altra situazione che possiamo considerare. Quindi l'outcome goal è qualcosa che viene dall'esterno, noi dobbiamo vincere qualcosa all'esterno. E poi c'è l'altra che si fonde con questa, che si chiama performance goal, cioè come mi miglioro, come posso migliorarmi indipendentemente dal resto per poter essere molto più performante e vincere questa gara. Quindi la prima cosa è definire gli obiettivi. Beh, parole illuminanti, anche perché immaginiamo, Stefano, a proposito di abitudini che cambiano, quanti di noi, praticamente tutti, hanno dovuto cambiare ad esempio alcuni gesti quotidiani, no? Io per esempio ti sto parlando con i guanti monouso e con un microfono ad hoc, ed è certo una situazione non abitudinaria, così come non è abitudinario averti a fianco a me come al solito in studio, ma questa volta gioco forza al telefono. Ecco, possono essere questi gesti dei e riuscire a cambiarli, mi stai spiegando, dei piccoli micro obiettivi che in qualche modo possono essere, una volta compiuti, anche gratificanti in una situazione di forte stress e di forte crisi, no? Sì, giustissimo. Tant'è che queste non sono parole al vento, ma le dico con rispetto. Questi momenti sono realmente delle grandi opportunità. È un'opportunità per tutti noi di migliorarci necessariamente, di andare a considerare nuove situazioni che poi si aggiungeranno a quella che era l'abitudinarietà per tutti noi, ma per ora c'è una straordinarietà del periodo che stiamo vivendo. Allora, in questo senso, da prima c'è la possibilità di considerare, di rivalutare tante cose che tanti di noi davano per scontate fino a poche settimane fa. La libertà innanzitutto, la libertà di muoversi, la libertà di andare da amici, di andare al cinema, la libertà di acculturarsi, tutto quello che sappiamo. Un altro elemento che viene meno è l'affettività, la relazione fisica che produce endorfine. La fisicità intesa come una carezza, una stretta di mano, un abbraccio, per parlare poi ovviamente di situazioni più complesse anche di una coppia. Ecco, quello produce benessere, ce ne stiamo accorgendo di come noi in realtà siamo persone che cerchiamo il bene. Quando la fisicità ci parla, e in questo momento ci sta parlando perché ci accorgiamo di ciò che ci manca, allora abbiamo l'opportunità di capire che quelli erano valori importanti. E anche nell'allenamento, ad esempio, possiamo inventarci cose nuove perché purtroppo non possiamo andare in palestra, non possiamo andare a correre, eccetera, eccetera, eccetera. Eh sì, adesso ci arriviamo, perché ci devi dare anche qualche suggerimento per mantenerci in forma in questo periodo, perché quando passerà, e sicuramente passerà anche presto, vogliamo tornare a goderci tutto lo sport possibile e anche un po' di più, perché saremo in crisi d'astinenza. Ma mi parli di gesti semplici a cui ridare valore. Ecco, forse proprio il gesto più semplice che stiamo rivalutando in queste settimane, in questo periodo, è il lavarsi le mani, no? E che ci permette anche di relativizzare e comprendere l'importanza di questa gestualità nella nostra cultura a confronto con altre culture. Pensiamo all'importanza dell'acqua che può essere che l'acqua può avere nel continente africano, ad esempio, quante volte noi la banalizziamo e quanto questo gesto la sta riportando al centro della nostra vita, mi viene da pensare. Sì, questa è una cosa, per esempio, di cui parlo molto spesso agli atleti, ma anche ai miei studenti, cioè il privilegio di poter avere l'acqua. Al mattino, quando ci alziamo, può essere calda, fredda, tiepida. Questo è un privilegio enorme che oggi viene ancora maggiormente più considerato, proprio perché è fonte di salute. Andando spesso in Oriente per i miei viaggi di studio e in realtà anche professionale spesso, ho potuto apprezzare molto in Giappone e in altri paesi quella che è il rispetto della fisicità. Quando spesso si salutano a quelle latitudini, c'è un momento di rispetto anche della vicinanza del proprio spazio, il proprio spazio vitale, che deve essere in questo caso valorizzato. In che modo? Beh, io so che quando parlo chiaramente ho una nebulizzazione di quello che è la mia possibilità di contaminare l'altro. Quello lo possiamo vedere moltissimo spesso quando sono i cantanti e capiamo quanto in realtà noi potremmo essere in questo momento contaminanti, quindi quel famoso metro minimo di distanza deve essere rispettato, perché qui non ci sono regole umane che determinano il fallimento o meno di un'azione, qui ci sono delle regole della natura, i virus fanno la loro parte. Certo è che in questo caso loro si nutrono della nostra capacità di emanare vaporacqueo, quindi il virus si aggancia ad una micromolecola di acqua e può essere oggetto contaminante per noi. Quindi anche quando siamo in famiglia cerchiamo nei limiti del possibile di usare questo rispetto dello spazio, così come poi vedremo anche quando possiamo magari con una persona andare anche a camminare insieme, anche lì sarà importante questo spazio. E poi le mani si devono essere sempre fresche, pulite, perché sono veramente l'antenna che ci trasmette le informazioni tra noi e gli altri. Eh sì, non vediamole solo come limitazioni o ostacoli, no? Questi gesti, ma anche come forma di rispetto e anche un metro di distanza, e le mani iperlavate possono essere il modo giusto per dire a una persona ti rispetto e ti voglio bene. Stefano Tirelli, già ci hai incamminato, già mi sento un po' meglio mentre chiacchieriamo insieme. Prendiamoci un istante di pausa, poi ritorniamo qui insieme a Olimpia, la città dello sport. Olimpia. La partita più difficile è quella che stiamo giocando tutti quanti in queste settimane, in questo tempo complesso in cui l'avversario è poco più di una molecola eppure insidiosissimo. Sì, parliamo di sport in senso lato oggi a Olimpia, lo sport ai tempi del coronavirus, con una formula abusata ma ahimè davvero sin troppo attuale. E lo facciamo con un grande amico di Olimpia, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano, mental coach e preparatore atletico di molti campioni dello sport italiano e internazionale. Stefano Tirelli, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario, ben ritrovati a voi. Stefano, nella prima parte di questa puntata speciale oggi ci hai aiutato a capire come la nostra mente sta reagendo, no, a questa emergenza. Aiutaci però, sfruttando un altro bello spicchio delle tue competenze, a capire come può reagire anche il nostro fisico. Ci troviamo, ahimè, nella costrizione di dover limitare molte dei nostri movimenti, molte delle nostre attività sportive, però un po' di sport si può fare, chiaramente mantenendo le giuste distanze, le giuste precauzioni, e comunque poi ci rimane lo spazio casalingo che in qualche modo può essere gestito anche ad hoc. Ecco, come possiamo innanzitutto iniziare a prenderci cura del nostro corpo avendo un po' più di tempo a disposizione, causa di forza maggiore, e però uno spazio decisamente più limitato? Possiamo prenderci cura del nostro corpo cercando dapprima di capire perché è importante prenderci cura del nostro corpo, perché in questo momento la necessità è quella di smaltire quanto più possibile tossine di carattere fisico, mentale. Molte delle persone in questi giorni fanno fatica a dormire, non hanno dei sonni riposanti ovviamente, e quindi questo crea una ossidazione, un consumo del nostro corpo a livello fisico che nei giorni, nei mesi, no, non intendo in relazione a questo problema, ma in generale possono causare veramente grosse limitazioni. Allora lo sport in questo caso, o l'attività fisica, diventa veramente un mezzo potentissimo per stare molto meglio. Qui abbiamo, secondo me in generale, sempre tre categorie: gli allenati, i non allenati e i sedentari. Per ognuna di queste categorie ci sarà in questo momento la possibilità di fare taluni esercizi, talune attività motorie e fisiche, e per altri altre. In questo caso per esempio gli allenati chiaramente sono quelli che regolarmente fanno attività fisica e in casa propria hanno spesso anche degli attrezzi, perché hanno questa dipendenza sana, a volte magari eccessiva, ma per lo più molto buona, e possono a livello indoor, parliamo della propria casa, allenarsi con una cyclette piuttosto che con un tapis roulant, piuttosto che con lavori isometrici tipo il plank, oppure con uso di attrezzi professionali, elastici. Però chiaramente fuori oggi cosa c'è concesso di fare? Ad esempio camminare e magari correre, ma quando? Innanzitutto in orari specifici dove sappiamo che c'è meno possibilità di contaminazione, anche se chiaramente purtroppo in questo momento le persone in giro sono proprio poche, e per fortuna, perché stanno rispettando delle regole di solidarietà e di altruismo. Ma fuori possiamo magari andare con un amico, con una persona a noi cara, mantenendo quel metro minimo di distanza. Io consiglio un po' di più nell'attività motoria, perché comunque la respirazione è maggiore e quindi abbiamo una nebulizzazione maggiore, una capacità di produrre vapore acqueo che fuoriesce, che sappiamo cosa porta, e quindi maggiore distanza. Poi se vuoi, Dario, ti posso anche dire quello magari che si può fare per i non allenati. Sì, che forse è anche il mio caso, che piano piano da una buona condizione fisica sto declinando, anche se resisto a mio modo. Ecco, chi proprio non è informissima, ma che chiaramente vuol trovare giovamento anche in quel quarto d'ora, in quei 20 minuti di attività in casa giornaliera, che intanto ci distraggono e però ci tengono in moto e producono un po' di endorfine positive. Ecco, che cosa ci suggerisci, Stefano? Beh, per chi ha la fortuna di avere un ambiente esterno dove poter andare a camminare, ad esempio la camminata un po' accelerata, magari a volte anche con l'utilizzo di bastoni per il Nordic Walking, che ultimamente negli ultimi anni è sempre più in voga anche da noi, pur essendo nato nei paesi nordici appunto, ma in questo caso le camminate fuori sono senz'altro salutari, bastano 20 minuti al giorno per i non allenati, fino ad arrivare a 30 minuti. Diciamo che in casa poi abbiamo anche degli attrezzi che sono casalinghi, cioè abbiamo le bottiglie, abbiamo i fustini dei detersivi, abbiamo la corda degli accappatoi, cioè noi possiamo inventarci degli esercizi qualora decidessimo veramente che questo è il momento di vincere. Perché continuo a insistere su questo elemento? Perché qui non c'è altra scelta, dobbiamo vincere questa sfida. E come la vinciamo? Stando meglio con noi stessi e quindi anche con gli altri. È un dovere, ma lo dico in senso buono, positivo, volerci bene in questo momento per volere bene ancora di più le persone intorno a noi. Allora, cosa succede? Che magari quella bottiglia da un litro e mezzo, a volte di plastica, può diventare per me un manubrio, no? Uno di quei pesi che posso utilizzare per flettere ed estendere per esempio l'avambraccio e creare un po' di tono a livello del bicipite, sdraiarmi magari sul letto e con ginocchia flesse fare i pettorali con due di queste bottiglie. Posso per esempio anche per i sedentari cercare di utilizzare il divano che è di fronte alla TV, cercando psicologicamente in questo caso di guardare molto meno programmi che siano sempre intrisi di grande gravità, e quindi informarci è molto utile, è necessario, però cercare di calibrare la percentuale di queste informazioni che arrivano. Quindi davanti al divano io posso anche flettere ed estendere più volte la mia gamba, anziché mantenermi sempre flesso, creando una problematica anche di circolazione sanguigna. E per esempio di fronte alla TV, se ho voglia di vederla, posso alzarmi, flettere leggermente le ginocchia e fare quello che fanno per esempio gli orientali nelle strade. Che cosa fanno? Spesso li vediamo muoversi lentamente, muovere lentamente gli arti superiori, gli arti inferiori, il tronco, come se fossero con l'acqua fino al collo muovendo l'acqua. Ecco, l'idea è proprio quella di immaginarci di muovere l'acqua intorno a noi con i piedi appoggiati al fondo, quindi in posizione retta. Perché? Perché i movimenti molto blandi sono quelli migliori per chi non è ancora allenato al movimento dinamico. Quindi abbiamo le tre categorie, gli allenati, non allenati, sedentari. Per i sedentari, che spesso sono lì davanti alla televisione o diciamo spesso anche su una poltrona, va bene, vi piace la poltrona, però perlomeno la utilizziamo bene. Direi proprio di sì, insomma, mi hai fatto scoprire che ognuno di noi in casa davvero ha un repertorio che vale quasi una palestra e non la sostituisce, ma insomma, sul breve periodo davvero ci abbiamo tantissimi spunti, quantomeno per mantenere allenato sia il fisico e indirettamente, o meglio, conseguentemente anche la nostra mente, perché questa partita si vince appunto anche attraverso questi piccoli gesti. Chiaramente situazione diversa per gli atleti professionisti, no? È un momento in cui immagino Stefano, anche tra i tanti campioni che stai seguendo, ci sia e c'è un po' di incertezza sull'obiettivo finale, no? Perché chiaramente il calcio vive, è in pausa, le Olimpiadi sembrano sfumare all'orizzonte, staremo a vedere, per non dire poi degli europei di calcio. Ecco, invece, per quei campioni, su cosa ci si può focalizzare in questi giorni? Con gli atleti con i quali lavoro, che sono del mondo del calcio, del volley, del tennis, di altri sport, direi che c'è una cosa che salva loro a livello agonistico, che è quando almeno possono allenarsi, quella fase di allenamento scaturisce in loro, fa scaturire in loro quella fiamma, quella energia che ha determinato per loro il successo nella loro carriera. Quando erano bambini avevano questa fiamma, l'hanno continuata a coltivare, a mantenere e gli ha permesso di diventare campione. Allora cosa succede? Che quando loro sono sul campo per allenarsi, queste energie comunque esistono, si alimentano. Quando invece c'è per forza da fermarsi, non si può neanche da andare ad allenarsi, allora a quel punto è importante fare delle visualizzazioni a livello mentale. In che modo? Le visualizzazioni hanno uno scopo molto preciso. Attraverso la forza dell'immagine, del nostro pensiero, andare a lavorare su azioni del nostro organismo a livello di organi e talvolta addirittura anche di muscoli. Oppure guardando dei video con i cosiddetti neuroni specchio, che sono quelli che se io vedo delle mie performance o qualcosa a cui io ambisco arrivare, per poter realizzare quel gesto atletico, sto memorizzando in quell'istesso istante l'attività motoria che poi andrò a produrre. Quindi è importante delle tecniche di visualizzazione e di rilassamento, che ce ne sono tantissime ovviamente oggi e da sempre nel mondo. Una, la più importante, la più importante forse no, ma quella più comune usata, è quella di rilassarsi, di guardare lentamente davanti, poi chiudere gli occhi e iniziare a comandare il proprio organismo, rilassando tutti i muscoli dalla testa fino ad arrivare ai piedi. Allora, in quel caso, cosa succede? Che sicuramente il nostro organismo acquisirà delle nuove metodiche di autorigenerazione, cioè endorfine, rilassamento dei muscoli, vasodilatazione. Tutto questo ci porterà ad una migliore circolazione sanguigna e una maggiore capacità respiratoria. E allora Stefano Tirelli, direi che ci hai suggerito un prezioso pacchetto, un mix di attività, iniziative, soluzioni tra cuore e mente, direi così, che veramente ci hanno dato qualche arma in più per vincere questa partita. E allora, caro Stefano, io ti ringrazio per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport, e ti confesso che desiderio mio e di tutti i nostri ascoltatori è quello di riaverti presto qui a fianco a me in studio a Olimpia, perché sarebbe il segno di una normalità finalmente riconquistata, vinta e ritrovata. Grazie a Stefano Tirelli per essere stato anche oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario, per una volta, oltre a dirvi energia per tutti, mi sento di dirvi che è solo nei momenti di grande stress, di grande prova che dimostriamo, possiamo dimostrare la nostra forza. Sono sicuro che ce la faremo tutti quanti amando noi stessi, amando gli altri. Rispettiamo quello che ci viene detto e ne usciremo al più presto. Grazie Dario, grazie a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.